Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Il signor Pietro Bembo alla sua favola diede principio, così dicendo. Favola terza. Un tedesco ed un spagnuolo mangiavano insieme. Nacque tra servi contenzione qual fosse più liberale. E finalmente conclude il tedesco essere più magnifico del spagnuolo. La favola, raccontata dalla valorosa Nostra Signora, mi riduce a memoria quello intravenne della invidia nata tra gli servi d'un tedesco ed un spagnuolo che mangiavano insieme. Ed avvenga che la favola sia brevissima, sarà però dilettevole e piacerà a molti. Un tedesco ed un spagnuolo un giorno, ritrovandosi in certa osteria, cenarono insieme e furonvi opposte vivande d'ogni maniera molto abbondanti e delicate. E mangiando l'uno e l'altro, il spagnuolo porgeva al servo suo or un pezzo di carne, or un pezzo di pollo, ed or questa, or quell'altra cosa da mangiare. Il tedesco stavasi mutolo divorando e sgolizzando ogni cosa, senza punto ricordarsi del servo suo. Per il che nacque tra servi una grandissima invidia, ed il servo del tedesco diceva che gli spagnuoli erano più liberali e più prestanti di tutti gli uomini. Ed il servo del spagnuolo confirmava il medesimo. Il tedesco, poscia che ebbe cenato, prese il vaso con tutte le vivande che erano in quello e porselo al servo suo, dicendo che cenasse. Onde il servo del spagnuolo, avendo invidia della felicità del suo compagno, rivocata la sentenza sua, mormorava tra sé tai parole, dicendo: ora conosco io che i tedeschi sono fuor di modo liberali. La novella dimostra a niuno essere contento della sorte sua. Fine della storia. Senza interporre altro intervallo, Pietro Bembo propose il suo enimma in tal maniera, dicendo: io mi sto chiusa in sì al tiero loco, che arrivar non mi puon ali né piume. La forza sol dell'ingegno non poco mi fa prestar a cui non ha buon lume. Ad alto stato un gentil cor colloco e sono scura a cui di me presume. Ma percossa da quei che nulla sanno, quella che pur non son parer mi fanno. L'enimma altro non dimostra, eccetto l'astrologia, la qual è posta in luogo eminente dove non si può volar con ali. Fine della terza favola della tredicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini.